Così è stato. Dopo la sveglia e il pane, mi hanno chiamato fuori con altri tre della mia baracca. Ci hanno portati in un angolo della piazza dell'appello, dove c'era una lunga fila, tutti gli Arztvermelder di oggi. È venuto un tale e mi ha portato via gamella, cucchiaio, berretto e guanti. Gli altri hanno riso. Non sapevo che dovevo nasconderli o affidarli a qualcuno, o meglio che tutto venderli, e che in KB non si possono portare. Poi guardano il mio numero e scuotono il capo. Da uno che ha un numero così alto, ci si può aspettare qualunque sciocchezza. Poi ci hanno contati, ci hanno fatti spogliare fuori al freddo, ci hanno tolto le scarpe, ci hanno di nuovo contati, ci hanno rasa la barba, i capelli e i peli, ci hanno contati ancora e ci hanno fatto fare una doccia. Poi è venuta una SS, ci ha guardati senza interesse, si è soffermata davanti a uno che ha un grosso idrocele e lo ha fatto mettere da parte. Dopodiché ci hanno contati ancora una volta e ci hanno fatto fare un'altra doccia, benché fossimo ancora bagnati della prima e alcuni tremassero di febbre. Ora siamo pronti per la visita definitiva. Fuori dalla finestra si vede il cielo bianco e qualche volta il sole. In questo paese lo si può guardare fisso, attraverso le nuvole, come attraverso un vetro affumicato. A giudicare dalla sua posizione, debbono essere le 14 passate. Addio zuppa ormai, e siamo in piedi da 10 ore e nudi da 6. Anche questa seconda visita medica è straordinariamente rapida. Il medico ha il vestito a righe come noi, ma sopra indossa un camice bianco ed ha il numero cucito sul camice ed è molto più grasso di noi. Guarda e palpa il mio piede gonfio e sanguinante, al che io grido di dolore, poi dice «Aufgenommen Block 23». Io resto lì a bocca aperta, in attesa di qualche altra indicazione, ma qualcuno mi tira brutalmente indietro, mi getta un mantello sulle spalle nude, mi porge un paio di sandali e mi caccia all'aperto. A un centinaio di metri c'è il Block 23. Sopra c'è scritto «Schonungsblock». Chissà cosa vorrà dire. Dentro mi tolgono mantello e sandali e io mi trovo ancora una volta nudo e ultimo di una fila di scheletri nudi, i ricoverati di oggi. Da molto tempo ho smesso di cercare di capire. Per quanto mi riguarda, sono ormai così stanco di reggermi sul piede ferito e non ancora medicato, così affamato e pieno di freddo, che nulla più mi interessa. Questo può benissimo essere l'ultimo dei miei giorni, e questa camera la camera dei gas di cui tutti parlano, che ci potrei fare? Tanto vale appoggiarsi al muro e chiudere gli occhi e aspettare. Il mio vicino non deve essere ebreo, non è circonciso, e poi, questa è una delle poche cose che ho imparato finora, una pelle così bionda, un viso e una corporatura così massicci sono caratteristici dei polacchi non ebrei. È più alto di me di tutta la testa, ma ha una fisionomia abbastanza cordiale, come l'hanno solo coloro che non soffrono la fame. Ho provato a chiedergli se sa quando ci faranno entrare. Lui si è voltato all'infermiere, che gli somiglia come un gemello e sta in un angolo a fumare. Hanno parlato e riso insieme, senza rispondere, come se io non ci fossi. Poi uno di loro mi ha preso il braccio e ha guardato il numero, e allora hanno riso più forte. Tutti sanno che i 174.000 sono gli ebrei italiani, i ben noti ebrei italiani, arrivati 2 mesi fa, tutti avvocati, tutti dottori, erano più di 100 e già non sono che 40, quelli che non sanno lavorare e si lasciano rubare il pane e prendono schiaffi dal mattino alla sera. I tedeschi li chiamano zwei linke Hände, due mani sinistre. E perfino gli ebrei polacchi li disprezzano, perché non sanno parlare Yiddish. L'infermiere indica all'altro le mie costole, come se io fossi un cadavere in sala anatomica. Accenna alle palpebre, alle guance gonfie e al collo sottile. Si curva e preme con l'indice sulla mia tibia e fa notare all'altro la profonda incavatura che il dito lascia nella carne pallida, come nella cera. Vorrei non aver mai rivolto la parola al polacco. Mi pare di non avere mai, in tutta la mia vita, subito un affronto più atroce di questo. L'infermiere intanto pare abbia finito la sua dimostrazione, nella sua lingua che io non capisco e che mi suona terribile. Si rivolge a me e in quasi tedesco, caritatevolmente, me ne fornisce il compendio. Tu jude kaput, tu schnell crematorium fatig. Tu ebreo spacciato, tu presto crematorio, finito. Qualche altra ora è passata prima che tutti i ricoverati venissero presi in forza, ricevessero la camicia e fosse compilata la loro scheda. Io, come al solito, sono stato l'ultimo. Un tale, col vestito a rigoni nuovo fiammante, mi ha chiesto dove sono nato, che mestiere facevo da civile, se avevo figli, quali malattie ho avuto, una quantità di domande. A che cosa possono mai servire? Questa è una complicata messa in scena per farsi beffe di noi. Sarebbe questo l'ospedale. Ci fanno stare nudi, in piedi, e ci fanno delle domande. Finalmente anche per me si è aperta la porta e ho potuto entrare nel dormitorio. Anche qui, come dappertutto, cuccette a tre piani, in tre file, per tutta la baracca, separate da due corridoi strettissimi. Le cuccette sono 150, i malati circa 250. Due, quindi, in quasi tutte le cuccette. I malati delle cuccette superiori, schiacciati contro il soffitto, non possono quasi stare seduti. Si sporgono curiosi a vedere i nuovi arrivati di oggi. È il momento più interessante della giornata. Si trova sempre qualche conoscente. Io sono stato assegnato alla cuccetta 10. Miracolo! È vuota. Mi distendo con delizia. È la prima volta, da che sono in campo, che ho una cuccetta tutta per me. Nonostante la fame, non passano 10 minuti che sono addormentato. La vita del KB è vita di limbo. I disagi materiali sono relativamente pochi, a parte la fame e le sofferenze inerenti alle malattie. Non fa freddo, non si lavora, e a meno di commettere qualche grave mancanza non si viene percossi. La sveglia è alle 4, anche per i malati. Bisogna rifare il letto e lavarsi, ma non c'è molta fretta, né molto rigore. Alle 5:30 distribuiscono il pane e si può tagliarlo comodamente a fette sottili e mangiare sdraiati con tutta calma. Poi ci si può riaddormentare, fino alla distribuzione del brodo di mezzogiorno. Fin verso le 16 è Mittagsruhe, riposo pomeridiano. A quest'ora c'è sovente la visita medica e la medicazione. Bisogna scendere dalle cuccette, togliersi la camicia e fare la fila davanti al medico. Anche il rancio serale viene distribuito nei letti. Dopodiché, alle 21, tutte le luci si spengono, tranne la lampadina velata della guardia di notte. Ed è il silenzio. E per la prima volta da che sono in campo, la sveglia mi coglie nel sonno profondo, e il risveglio è un ritorno dal nulla. Alla distribuzione del pane si sente lontano, fuori delle finestre, nell'aria buia, la banda che incomincia a suonare. Sono i compagni sani che escono inquadrati al lavoro. Dal cabe la musica non si sente bene. Arriva assiduo e monotono il martellare della gran cassa e dei piatti, ma su questa trama le frasi musicali si disegnano solo a intervalli, col capriccio del vento. Noi ci guardiamo l'un l'altro dai nostri letti, perché tutti sentiamo che questa musica è infernale. I motivi sono pochi, una dozzina, ogni giorno gli stessi, mattina e sera, marce e canzoni popolari care a ogni tedesco. Esse giacciono incise nelle nostre menti, saranno l'ultima cosa del Lager che dimenticheremo. Sono la voce del Lager, l'espressione sensibile della sua follia geometrica, della risoluzione altrui di annullarci prima come uomini per ucciderci poi lentamente. Quando questa musica suona, noi sappiamo che i compagni fuori, nella nebbia, partono in marcia come automi. Le loro anime sono morte e la musica li sospinge, come il vento le foglie secche, e si sostituisce alla loro volontà. Non c'è più volontà. Ogni pulsazione diventa un passo, una contrazione riflessa dei muscoli sfatti. I tedeschi sono riusciti a questo. Sono 10.000 e sono una sola grigia macchina. Sono esattamente determinati. Non pensano e non vogliono. Camminano. Alla marcia di uscita e di entrata non mancano mai le SS. Chi potrebbe negare loro il diritto di assistere a questa coreografia da loro voluta, alla danza degli uomini spenti, squadra dopo squadra, via dalla nebbia verso la nebbia? Quale prova più concreta della loro vittoria? Anche quelli del KB conoscono questo uscire e rientrare dal lavoro, l'ipnosi del ritmo interminabile che uccide il pensiero e attutisce il dolore. L'hanno provato e lo riproveranno. Ma bisognava uscire dall'incantamento, sentire la musica dal di fuori, come accadeva in KB e come ora la ripensiamo, dopo la liberazione e la rinascita, senza obbedirvi, senza subirla, per capire che cos'era. Per capire per quale meditata ragione i tedeschi avevano creato questo rito mostruoso e perché, oggi ancora, quando la memoria ci restituisce qualcuna di quelle innocenti canzoni, il sangue ci si ferma nelle vene e siamo consci che essere ritornati da Auschwitz non è stata una piccola avventura. Ho due vicini di cuccetta. Giacciono tutto il giorno e tutta la notte fianco a fianco, pelle contro pelle, incrociati come i pesci dello zodiaco, in modo che ciascuno ha i piedi dell'altro accanto al capo. Uno è Walter Bonn, un olandese civile e abbastanza colto. Vede che non ho nulla per tagliare il pane, mi impresta il suo coltello, poi si offre di vendermelo per mezza razione di pane. Io discuto sul prezzo, indi rinuncio. Penso che qui in KB ne troverò sempre qualcuno in prestito, e fuori costano solo un terzo di razione. Non per questo Walter viene meno alla sua cortesia, e a mezzogiorno, mangiata la sua zuppa, forbisce con le labbra il cucchiaio, il che è buona norma prima di imprestarlo, per ripulirlo e per non mandare sprecate le tracce di zuppa che vi aderiscono, e me lo offre, spontaneamente. Che malattia hai, Walter? Körperschwäche, deperimento organico, la peggiore malattia. Non la si può curare. Ed è molto pericoloso entrare in KB con questa diagnosi. Se non fosse stato dell'edema alle caviglie, e me le mostra, che gli impedisce di uscire al lavoro, si sarebbe ben guardato dal farsi ricoverare. Su questo genere di pericoli io ho ancora idee assai confuse. Tutti ne parlano indirettamente, per allusioni, e quando io faccio qualche domanda, mi guardano e tacciono. È dunque vero quello che si sente dire di selezioni, di gas, di crematorio. Crematorio. L'altro, il vicino di Walter, si sveglia di soprassalto, si rizza a sedere. Chi parla di crematorio? Che avviene? Non si può lasciare in pace chi dorme? È un ebreo polacco, albino, dal viso scarno e bonario, non più giovane. Si chiama Szmulek, è fabbro. Walter lo ragguaglia brevemente. Così, der Italienir non crede alle selezioni? Szmulek vorrebbe parlare tedesco, ma parla Yiddish. Lo capisco a stento, solo perché lui vuole farsi capire. Fa tacere Walter con un cenno. Ci penserà lui a farmi persuaso. Mostrami il tuo numero. Tu sei il 174.517. Questa numerazione è incominciata 18 mesi fa e vale per Auschwitz e per i campi dipendenti. Noi siamo ora 10.000 qui a Buna-Monowitz, forse 30.000 fra Auschwitz e Birkenau. Wo sind die andere? Dove sono gli altri? Forse trasferiti in altri campi, propongo io. Smulek crolla il capo. Si rivolge a Walter. Er will nix verstehen. Non vuole capire. Ma era destino che presto mi inducessi a capire e Smulek stesso ne facesse le spese. A sera si è aperta la porta della baracca. Una voce ha gridato «Achtung!» e ogni rumore si è spento e si è sentito un silenzio di piombo. Sono entrate due SS, uno dei due a molti gradi, forse è un ufficiale. Si sentivano i loro passi nella baracca come se fosse vuota. Hanno parlato col medico capo. Questi ha mostrato loro un registro indicando qua e là. L'ufficiale ha preso nota su un libretto. Smulek mi tocca le ginocchia. Pass auf, fa attenzione. L'ufficiale, seguito dal medico, gira in silenzio e con noncuranza fra le cuccette. Ha in mano un frustino. Frusta un lembo di coperta che pende da una cuccetta alta. Il malato si precipita a riassettarla. L'ufficiale passa oltre. Un altro è il viso giallo. L'ufficiale gli strappa via le coperte. Quello trasalisce. L'ufficiale gli palpa il ventre e dice «Gut, gut». Poi passa oltre. Ecco, ha posato lo sguardo su Smulek. Tira fuori il libretto. Controlla il numero del letto e il numero del tatuaggio. Io vedo tutto bene, dall'alto. Ha fatto una crocetta accanto al numero di Smulek. Poi è passato oltre. Io guardo ora Smulek e dietro di lui ho visto gli occhi di Walter. E allora non ho fatto domande. Il giorno dopo, invece del solito gruppo di guariti, sono stati messi in uscita due gruppi distinti. I primi sono stati rasi e tosati e hanno fatto la doccia. I secondi sono usciti così, con le barbe lunghe e le medicazioni non rinnovate, senza doccia. Nessuno ha salutato questi ultimi, nessuno li ha incaricati di messaggi per i compagni sani. Di questi faceva parte Smulek. In questo modo, discreto e composto, senza apparato e senza collera, per le baracche del Kabe si aggira ogni giorno la strage e tocca questo o quello. Quando Smulek è partito, mi ha lasciato cucchiaio e coltello. Walter e io abbiamo evitato di guardarci e siamo rimasti a lungo silenziosi. Poi Walter mi ha chiesto come posso conservare così a lungo la mia razione di pane e mi ha spiegato che lui di solito taglia la sua per il lungo, in modo da avere fette più larghe, su cui è più agevole spalmare la margarina. Walter mi spiega molte cose. Schonungsblock vuol dire baracca di riposo. Qui ci sono solo malati leggeri, o convalescenti, o non bisognosi di cure. Fra questi, almeno una cinquantina di dissenterici, più o meno gravi. Costoro vengono controllati ogni terzo giorno. Si mettono in fila lungo il corridoio. All'estremità stanno due bacinelle di latta e l'infermiere con registro, orologio e matita. A due per volta i malati si presentano e devono dimostrare sul posto e subito che la loro diarrea persiste. A tale scopo viene loro concesso un minuto esatto. Dopodiché presentano il risultato all'infermiere, il quale osserva e giudica. Lavano rapidamente le bacinelle in un'apposita tinozza e subentrano i due successivi.